che investi nel mondo. Si dice calpestino senza ritegno quello che ora è degno, che non lasci nel segno, che non alzi nel livello. Modella qui non rifarsi, sono gli scarsi, sono gli scarsi. Dovrebbe essere catarsi quando vedi gli scarsi sul palco esibirsi. Ma non ci pensi, i tuoi interessi sono alti, distruggere i baci, mandare a casa i non adatti, i meno atti, quelli che secondo il tuo parere non rappresentano le quattro arti. Tu ti diverti, loro diversi, abbatti i problemi più stupidi su questi esseri del poker bietti molto pessimi. Convincimi che loro la colpa, descrivici i loro peccati, illuminaci come la zocca e soprattutto indicami in modo inequivocabile una persona che incarna in modo indiscutibile ed incontrastabile ed universalmente giustificabile. Sucker, ricreazione, pensa i tuoi discorsi basati sul nulla, su una persona che sbaglia a vivere da quando si sveglia, quando si addormenta, fino a quando la notte non sogna. Penso strano, non conosco nessuno completamente buono, completamente cattivo, quindi il tuo obiettivo è trovare un capro espiatorio e basta, è una vendetta. O forse hai scoperto la loro inesistenza solo dopo aver cominciato a seguire la linea di tendenza di Abbasso e Sucker e viva l'onniscienza. La chiamo incoerenza, io la chiamo scarsa lungimiranza. La strada è quella e per orgoglio i forti continuano a seguirla. Chi se ne importa? A nessuno importa di criticare il giudizio, chi importa è importante. L'errore è comunque persistente, l'asse pioggia si sente di venire contro le vostre esigenze, di indicarvi una crew di Sucker realmente esistente su cui sfogare le vostre violente e costose cassette, che altrimenti dovreste buttare dalle vostre finestre, seppellire nelle vostre disgustose minestre. Bene, l'asse biose, siamo noi Suckers, le quattro arti le buttiamo nel water. Però almeno se noi facciamo i Sucker le vostre stronzate acquistano senso. Penso che adesso qualcuno non sarà d'accordo, ma fa lo stesso, non è uno scherzo. Faccio un pezzo da scarso e non ironizzo, io sono uno scarso e non supporto, bensì lavoro contro, lavoriamo contro, il nostro ruolo è questo. E se mi vuoi sputtanare resto un Sucker lo stesso, resto un Sucker lo stesso, resto un Sucker lo stesso, resto un Sucker lo stesso. Troppi MCs per 30 anni hanno parlato di noi come se non esistessimo, contando sul fatto che nessuno si sarebbe proclamato Sucker. Adesso, dopo una lunga attesa, come il messia ebraico, siamo giunti in terra per farci insultare e per provare che prima di noi i discorsi sui Suckers erano inutili, perché non esistevano i Suckers. Suckers, che termine opprobrioso.